later that you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli il tedio incombe come un'ombra al tramonto, Kappa e Drago aprono una finestra sul mondo. Sark Zirk Modal, qui è la stazione di Radio Rakhmanistan, l'unica radio libera e liberata da tutto il Medio Oriente. Cronaca interna. Generale Sparahari, in visita ufficiale di scuola elementare, ha interrogato studenti su storia di Rakhmanistan. Piccoli Erkmene studiavano ancora su libri dei tempi di Mullah Salvahari e non hanno risposto come voleva il generale Sparahari. Così il generale Sparahari fucilato intero corpo insegnato e preside di scuola. Sia fatta la volontà del generale Sparahari Erkmene. Immagina di essere un Irkmeno, K. Ti svegli al mattino e fa già caldo. Abiti in una casa di pietra bianca, con una bella gettata di cemento come pavimento, senza mobili, perché devi far spazio ai giacigli dei tuoi 9 figli e delle tue 3 mogli, di cui una 60enne con gravi problemi circolatori. Ma perché devo avere una moglie 60enne? Era stata promessa a tuo zio, ma poi tuo zio è morto nella guerra civile e allora l'hanno fatta sposare a te quando avevi 13 anni. Ma è fantastico. È la dura vita degli Erkmeni, K. E poi cos'altro? Ah sì, appena ti svegli all'alba, che fa già caldo, devi dire la preghiera del mattino. Devi girare il volto verso destra e recitare Assalamu alaikum Ramatul Lahai, che vuol dire la pace sia su di voi e la misericordia di Allah. Poi devi ripetere la stessa cosa verso sinistra, ti giri così, così avrai completato una preghiera di 2 raka e potrai cominciare la giornata. Che consiste in? Consiste nell'aver paura continuamente che da un momento all'altro arrivino le guardie del generale Sparahari a prenderti e portarti in galera. Beh, ma è una vita fantastica. E poi consiste nel non avere alcun rapporto con le donne e quelle poche che possono parlarti sono tutte velate come mummie. No, questo non mi piace. Se vedi la caviglia di una donna, vai in escandescenza e cominci improvvisamente a sparare in aria colpi di Kalashnikov. E poi c'è la questione del cammello in comproprietà. Ma cosa stai dicendo, Drago? No, perché il tuo cammello non è propriamente tuo. È in comproprietà con i tuoi cognati, che sono dei gran rompimaroni. Ma sì, ma è una vita d'inferno, ma com'è possibile? Il sabato sera tutti vogliono usare il cammello e le polemiche durano da anni. I tuoi figli, per andare in discoteca, ti chiedono sempre il cammello e tu dici sempre di no. Ma il tuo sogno di buon padre Irkmeno è di poter dar loro il cammello almeno un sabato sera. Li farei contenti così, Drago. Lo so, ma i tuoi cognati sono ostili e hanno a loro volta dei figli che vogliono il cammello anche loro. Ma quei mocciosi indisciplinati sul mio cammello? Ma mai! Non è il tuo cammello, è il vostro cammello. Dannata con proprietà. Già, in Irkmenistan il concetto di proprietà è leggermente diverso che qui da noi. Il viaggio da qui all'Irkmenistan è un po' come un viaggio da adesso a ieri, dal presente al passato, e ci si deve adeguare. Vogliamo parlare di quella volta invece che ho scoperto una delle mie mogli che si beveva una birra Corona comprata al mercato nero guardando una puntata di Nipentak usando un decoder craccato? Lì è stata dura, Vergogna è scesa su mia famiglia! No, ma Kappa, aspetta! Arcala! Tu zitto brutto infedele che te taglio con scimitarra a testa da collo. Ma tu non sei K, tu in realtà sei lo speaker di Radio Irkmenistan. Io ho preso moglie, spaccato bottiglia Corona in sua testa, sparato con fucile in dentro di televisione. La fabbrica di polli. Ma intanto, nei disertati sotterranei della fabbrica di polli, dove l'aria è spessa come una bistecca alla fiorentina, avvengono cose che nessun cervello umano potrebbe riuscire a comprendere. Cose come... le avventure di... la cavia da laboratorio! Mi chiedi papà! Mi chiedi papà! Nessuno con me! disse che... Agna... Agna, Agna... La fabbrica di polli. Ecco, Lastri, c'è una grande novità, eh? Ah, oh, pollo in sbattimento. Io non posso credere alle mie orecchie. Sì. In fabbrica una novità. Eh sì, eh? Hanno aperto un settore biologico. Vuol dire che ci sarà un settore della fabbrica in cui i polli verranno allevati secondo i criteri dell'allevamento biologico, no? Quindi mangime naturale, vita comoda e tutte quelle cose lì, eh? E lo fanno per esperimento. Ho capito. E vogliono capire se conviene riconvertire tutta la fabbrica in uno stabilimento biologico o continuare con il lager. Interessante, interessante. Quindi sarai contento tu. Eh sì. Vabbè, ma guarda che devi scordarti che convenga, Pollo, perché dopo il primo esperimento la fabbrica diventerà peggio di prima, perché i conti dimostreranno che conviene il lager. Ma scusa, ma che ne sai tu di economia e di gestione dei costi? Ma smetti. Niente. E allora? Sì, però mi sembra ovvio che un lager costi meno di uno stabilimento biologico, no? Se no anche Hitler avrebbe aperto degli allevamenti biologici invece che dei lager. E tu fai parte dei polli scelti per la sperimentazione biologica, Pollo? Eh sì, ci mancherebbe pure. Siamo io, Tarek e Joao. E la sperimentazione comincia domani, eh? Anzi, adesso io devo andare via perché devo andare a preparare la biancheria di ricambio per una settimana. E lo spazzolino e tutte quelle robe lì. Comunque ci si vede, eh? Ma Kappa, ma voglio anch'io partecipare alla sperimentazione. Io sono invidioso, eh? E tu, Kappa? No, ma noi non siamo polli, Drago. Beh, questo lo dite voi. Ora l'etologo studia il loro sguardo perso. Il veterinario cura il loro umore inverso. Erano uomini alti e pure belli, si ritrovarono per sempre ad essere polli. Così va il mondo così va. Chi va col pollo impara a razzolare. Scherza coi polli, ma lascia stare il pollo. So we sing together. It's to you, Kappa e Drago. It's to you, Drago e Kappa. It's to you, Kappa e Drago. It's to you, Drago e Kappa. La fabbrica di polli. Arca Arcalama, Arcamanana Arcala. Qui le stazioni di Radio Arkmanistan, l'unica radio libera e liberata del Medio Oriente. Politica estera, sedicente Repubblica di Arkmenistan Occidentale, per voce di suo leader ex galeotto Mullah Pregahari, ha dichiarato che mucchi di pietra sul confine orientale di suo paese appartengono di sua repubblica. Immediata reazione di Arkmenistan Unito per voce di generale Sparahari, che ha dichiarato subito di Jihad guerra santa e minacciato suo lontano cugino Mullah Pregahari di raccontare a terza moglie quella notte in tenda di deserto con 7 ballerine arrivate via di HL da San Pietroburgo. A porco Arkhamalam! Che cosa succederà adesso? Arriverà il momento in cui dalla fabbrica si capteranno altre stazioni radiofoniche? Possibile che neanche Radio Maria riesca a penetrare le spesse mura schermate della fabbrica di polli? Sono misteri che scioglieremo domani a mezzanotte su Radio 3 con il prossimo marconistico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude. Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.